La politica alla prova. Intervenire con i vostri sms al 349-238-6666. Apriamo con la notizia dell'atteso vertice europeo sul lavoro che si è concluso oggi, notizia che poi verrà approfondita dai nostri GR da Focus Economia. Sono stati sbloccati 9 miliardi di euro e di questi 1,5 andrà all'Italia. Soddisfatto il premier Enrico Letta, triplicati i fondi che ci aspettavamo contro la disoccupazione. Sentiamo allora quali sono state le prime parole di Letta in conferenza stampa. Comincio questa conferenza stampa col sorriso perché credo ci sia da sorridere oggi, mi sembra un risultato importante per l'Italia e mi sembra un risultato importante per l'Unione Europea. Se posso fare una sintesi, abbiamo vinto bene sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile, abbiamo vinto di misura sul tema dell'unione bancaria, abbiamo pareggiato sul ruolo della Banca Europea degli Investimenti. E Letta lancia anche un avvertimento ai suoi alleati. Se qualcuno pensa che io sono qui per sfasciare i conti pubblici, ha sbagliato primo ministro. Riferimento a IVA e IMU e alla discussione in corso nel paese. Sentiamo. Sulle altre due questioni, IVA e IMU, erano impegni presi con il discorso di insediamento in Parlamento e continueremo, come ho sempre detto fin dall'inizio, a far di tutto perché senza sfasciare i conti pubblici, perché chi pensa che io sia qui per sfasciare i conti pubblici ha sbagliato primo ministro, io sono qui per tenere in equilibrio i conti pubblici italiani e riuscire a far partire, ripartire l'economia attraverso le scelte che si possono negoziare. E oggi quello che abbiamo ottenuto da Bruxelles è la dimostrazione che se si va con le idee chiare, scegliendo gli obiettivi giusti, con le alleanze giuste, si ottengono risultati, soldi, risorse su ciò che è utile, perché quello che abbiamo ottenuto a favore della lotta alla disoccupazione giovanile dimostra che si possono ottenere risultati a Bruxelles agendo nel modo giusto. Ma la questione dell'IVA, dell'IMU, le questioni economiche continuano ad agitare la maggioranza. Berlusconi riunisce i suoi a Palazzo Grazioli per frenare le fibrillazioni e smorzare lo scontento su questi temi. Nel mirino la questione delle coperture, in particolare per il rinvio dell'IVA. Al PDL non va giù l'aumento dell'acconto IRPEF, no al rinvio di una tassa con aumento di un'altra tassa. Il governo ha ripetuto poco fa, il capogruppo a Montecitorio Brunetta dovrà trovare nuove coperture per finanziare lo stop all'aumento dell'IVA attualmente coperto con l'aumento degli anticipi fiscali. Brunetta che oggi insieme al presidente della Commissione Finanze di Montecitorio Capezzone ha presentato una mozione con la quale si chiede al governo di pagare entro il 2013 tutti i 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione alle imprese anziché spalmarli anche sul 2014. Perché? Perché secondo il PDL con gli effetti fiscali positivi che si dovrebbero produrre dalla liquidità di questi pagamenti si potrebbe andare a coprire sia lo stop dell'imposta sul valore aggiunto per il 2013 sia l'abbattimento dell'IMU sull'abitazione principale. Allora sentiamo lo stesso Daniele Capezzone. Il governo paghi subito entro il 2013 non una parte ma tutti i debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Che vuol dire? Vuol dire onorare quello che le imprese devono avere, vuol dire far crescere il PIL e immettere molto denaro nell'economia italiana, è una cosa su cui l'Europa ci ha detto sì e questo vuol dire anche avere maggiore gettito che consente di coprire i tagli fiscali che dobbiamo fare, è una cosa rispetto alla quale è impossibile dire di no. Una mozione sulla quale potrebbero anche convergere 5 Stelle. Allora abbiamo sentito Mattia Fantinati della Commissione Attività Produttive della Camera. Per quanto riguarda questo rinvio dell'IVA, che si parla di una copertura di 1 miliardo, poi sembra che addirittura sia di più, ci sono alcuni dati addirittura della CGIA di Mestre che parla di oltre 2 miliardi. A noi ci sembra che questo governo sinceramente faccia davvero poco, sia un po' un governo degli slogan, anche perché si va a sobbarcare alle imprese che già fanno veramente fatica in questo periodo. Allora che cosa significa? Significa che gli effetti di questo rinvio dell'IVA non sono altro che le imprese, oltre a non trovare soldi loro stesse per avere un accesso difficile credito, devono anche finanziare lo Stato. E adesso c'è una proposta, una mozione del capogruppo della Camera del PDL Brunetta e dal Presidente della Commissione Finanze di Montecitorio Capezzone, che chiede al Governo di pagare entro il 2013 tutti i 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione alle imprese, anziché spalmarli anche sul 2014. Questa potrebbe essere la copertura per la cancellazione dell'aumento dell'IVA. Vi trovereste d'accordo? Ma questa è una cosa che dobbiamo appunto valutare. Noi avevamo già chiesto all'epoca di fare luce su quanti sono questi debiti della pubblica amministrazione, perché si parla da 90 a 120 miliardi. Quindi su questo in teoria potreste anche essere d'accordo, potreste anche questo considerare. Però vorremmo un attimo valutarlo con le commissioni di competenza. È chiaro che se c'è una linea che agevola le piccole e medie imprese, oppure anche le imprese di dimensioni più grandi, per aiutarle, per dare ossigeno, per pagare ciò che lo Stato ancora deve, a noi sembra, diciamo, una cosa ragionevole. E allora leggiamo qualche sms che è arrivato su questo tema. Perché non diminuiscono le tasse sulle imprese e così non delocalizzano all'estero, dice Marco. Ma questi pagliacci non hanno ancora finito di prenderci per il culo, dice Antonio da Como, mentre un altro ascoltatore dice il rinvio di una tassa con un'altra tassa, proprio una buffonata. Vi ricordo intanto il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Ma c'è un altro tema che agita la maggioranza ed è il tema giustizia, con le polemiche su un presentato ieri dal PDL nel DDL sulle riforme costituzionali all'esame della Commissione Affari Costituzionali. Un emendamento in cui si chiedeva in sostanza di includere anche la giustizia nella grande riscrittura della Costituzione. Un blitz, secondo il PD, che ha parlato di tentativo di forzare l'accordo di maggioranza sulle riforme e creare un varco per intervenire su altri temi. Oggi però il PDL frena, nessuna accelerazione, solo un passaggio tecnico necessario, nega che ci siano legami tra le vicende processuali di Berlusconi e la proposta di ieri. Il ministro delle riforme Quagliariello parla di tempesta in un bicchiere d'acqua, ma il PD mette di nuovo in guardia la giustizia, resti fuori. Sentiamo allora una breve battuta del segretario del PD Epifani. Per quanto riguarda il provvedimento lì, quel provvedimento muore prima di nascere, perché non siamo d'accordo. E avendo noi numeri in maggioranza, come lei capisce, non ho neanche bisogno di insistere. Quindi... E la questione giustizia, come sappiamo, è un terreno molto minato, destinato ad accendere ogni volta lo scontro tra PD e PDL. Allora, per chiudere il cerchio, sentiamo la ricostruzione di quanto successo ieri dal primo firmatario di questo emendamento, che è il senatore del PDL Donato Bruno, il quale insiste: se con le riforme costituzionali si interviene sui poteri del capo dello Stato, che presiede anche il CSM, è inevitabile intervenire anche sulla giustizia. Sentiamo Bruno. Si tratta di questo, innanzitutto. In sede di discussione io ho fatto rilevare agli atti della Commissione circa 10 giorni fa che parlare solo della modifica della parte seconda della Costituzione e limitarlo al titolo 1, 2, 3 e 5 vi era un vulnus, atteso che il titolo 4 e il titolo 6 parla della Corte Costituzionale e della magistratura. Poiché noi ci stiamo orientando verso la fine del bicameralismo perfetto, si comincia a parlare di Senato federale. Se l'orientamento che dovesse uscire dal dibattito in sede di comitato è quello di andare verso una forma di presidenzialismo o semipresidenzialismo, certamente il presidente così eletto non può essere il presidente del CSM, quindi andremo a toccare inevitabilmente anche il CSM. Pertanto si è da parte mia nell'emendamento voluto eliminare i titoli e lasciare in maniera generica la riforma dell'intero titolo, parte seconda della Costituzione. Questo è quello che è avvenuto. Stesso emendamento, non identico, ma di contenuto identico, l'ha presentato anche Lo Moro insieme agli altri componenti, la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che introduce la possibilità di intervenire anche sugli altri titoli della parte seconda della Costituzione. E quindi si può convergere su quell'emendamento? Non lo so se si può convergere, se è chiaro sì, se non è chiaro noi vogliamo che venga specificato che ci sono delle parti del titolo quarto e del titolo sesto che necessariamente dovranno essere modificate, attese le modifiche che interverranno al titolo 1, 2, 3 e 5. Come si spiega allora questa alzata di scudi da parte del PD? Non sono stati solo i giornalisti, sono delle note pure. No, guardi, è partito con un'ansia del Repubblica.it dicendo blitz. Poi è chiaro che chi gli piace il termine blitz l'ha cavalcato, come spesso avviene. Insomma, voi siete un po' più anticipati. Sì, però c'è una nota anche, non so, ci sono state anche delle note di alcuni esponenti del Partito Democratico che hanno parlato di pirateria del costituzionale, non conoscono bene come è divisa la parte seconda. Però insomma la sensazione è che basta che si tocchi il tema giustizia, no? Insomma, ma questo è un fatto politico, questo è un fatto politico dove io non voglio entrare. Se noi abbiamo intenzione di modificare la magistratura, credo che siamo in condizione di presentare un provvedimento autonomo e discuterlo, offrirlo al Parlamento. Qua stiamo parlando della modifica della Costituzione sulla base di delle mozioni che abbiamo presentato, che è altro argomento. Nessuno ha inteso introdurre la modifica della giustizia in questo. E chiudiamo con una notizia che riguarda i 5 Stelle. La senatrice Fabiola Anitori ha lasciato il movimento per passare al gruppo misto. Non riconosco più l'impostazione iniziale del movimento, che è diventato un partito personale. Si tratta del quarto addio al Senato. E con questo è tutto. La politica alla prova si ferma qui. Un saluto da Alessandra Schepisi.